Italia in controluce. È il 18 di ottobre, in conduzione Daniele Biacchesi per il nuovo racconto di oggi. Oggi ci spostiamo ad Alessandria, dove le casse del comune, lo avevamo già detto anche ieri mattina, sono in crisi di liquidità, per fare un eufemismo, tanto che a fine mese 2.500 lavoratori tra dipendenti dell'amministrazione delle partecipate, se non subentrano delle novità, non riceveranno lo stipendio. Ma quanti sono? Sono le amministrazioni pubbliche vicine al fallimento oppure in crisi e quali sono i motivi? Secondo voi cosa sta accadendo? 349-238-6666, secondo il sindaco di Alessandria, che saluto, Maria Rita Rossa. Buongiorno. Buongiorno. Allora sentiamo subito Anna Marino, che siamo qui in diretta, a cui ho chiesto un po' di fare il punto di questa situazione vostra ad Alessandria, ma che so che non è solo ad Alessandria. Sì Daniele, anche le casse dei comuni italiani si può dire piangono il dissesto, al di là della battuta tra i tagli, della spending review, l'IMU, il patto di stabilità e le gestioni pregresse di amministratori usciti di scena, molti sono i comuni che si trovano in difficoltà finanziaria nel nostro paese e Alessandria ha un triste primato, è il primo capoluogo di provincia per cui sia stato dichiarato appunto lo stato di dissesto dalla Corte dei Conti dopo la normativa del settembre scorso che le ha attribuito questa prerogativa. Il fallimento è stato certificato il 12 giugno scorso dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dopo mesi di attesa e un'elezione che ha esautorato quello che sarebbe indicato come il principale responsabile di questo crack, l'ormai ex sindaco Piercarlo Fabio, all'epoca capo di una giunta PDL Lega. Ad oggi non ci sono novità, anche se il governo ha pensato a molti dei comuni disastrati con un decreto salva comuni, norme sul salvataggio che vogliono anche prevenire, come nel caso di Reggio Calabria, ma che comunque non stanno riscuotendo l'approvazione dei sindaci coinvolti come Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, che parla di decreto affonda Napoli e che ha convocato per protesta il 30 ottobre a Roma in piazza Montecitorio il Consiglio Comunale, o il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, che sta lavorando per evitare il default. Per la legge italiana, lo ricordiamo, un comune è dissestato o fallito quando il Consiglio Comunale è costretto ad adottare una deliberazione con la quale lo dichiara ed invoca la legge speciale per i comuni. È una sorta di fallimento previsto per quegli enti che si trovano in una situazione insanabile di insolvenza e devono ottenere il pareggio finanziario. In questo caso i creditori non possono più chiedere nulla, subentrano commissioni per liquidare l'attivo e per pagare i debiti, solo che mentre il privato imprenditore fallito non può più operare, un comune fallito può e deve continuare ad operare anche indebitandosi perché deve fornire servizi ai cittadini nonostante il fallimento in corso. Ecco, sindaco Rita Rossa, solo ieri al nostro Alessandro Milan aveva detto siamo falliti e se la Corte dei Conti non avesse dichiarato il dissesto finanziario oggi avremmo anche i creditori liberi di pignorare qualsiasi bene del comune. Oggi siamo dichiarati falliti. Ecco, ma può spiegare, perché alcuni ascoltatori ci chiedono all'SMS 349-238-6666 che cosa può accadere per i cittadini nel caso di un fallimento di un comune? Beh, cosa è già accaduto? È accaduto che essendo stati obbligati ad adottare la delibera in Consiglio Comunale a seguito dell'ultima deliberazione della Corte dei Conti, dopo un mese esatto abbiamo dovuto varare sempre in Consiglio Comunale una manovra tariffaria, per cui le tasse IMU e IRPEF sono andate al massimo consentito dalla legge e i servizi hanno avuto un notevole aumento. Compresa la tassa dei rifiuti. La città è quasi paralizzata perché non riusciamo a questo momento a poter garantire i servizi minimi, perché se alla fine del mese non saremo in grado di pagare gli stipendi, cioè se entro la fine del mese non ci arriveranno risposte certe dal governo che non avendoci inserito nel decreto, diciamo, salva comuni, adesso dovremo attendere anche le modifiche, se ci saranno, e i 60 giorni parlamentari, ma se per esempio una piccola misura come lo sblocco del credito che lo Stato ci deve non sarà attuato, non potendo pagare gli stipendi, temo che anche i servizi essenziali come la raccolta dei rifiuti, il trasporto, si bloccheranno, e quindi questa è una situazione veramente molto molto drammatica. Ad oggi il comune ha meno di 100.000 euro in cassa, e quindi praticamente. E con 100.000 euro che cosa potete fare? Guardi, ci sono 15 giorni fa avevamo 1.090.000 euro che io ho vincolato al pagamento dei contributi per i dipendenti, perché alcune partecipate non hanno pagato i contributi ormai da gennaio scorso. Ecco, ma mi scusi, il governo che cosa dice su questo? Il governo, abbiamo sollecitato il governo in più direzioni, non ci ha dato alcuna risposta. E invece gli uffici tecnici del Ministero degli Interni ci dicono che il dissesto è molto preciso, la legge sul dissesto è molto precisa sulle sanzioni, e che poiché la comunità ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità, questa è la loro interpretazione, i cittadini devono pagare. Ecco, ma ha vissuto veramente sopra le sue possibilità, Alessandria? Guardi, questo sarebbe un'interpretazione molto singolare. Io giudico che i cittadini siano stati assolutamente incolpevoli della mala gestio che invece ha fatto scempio delle finanze pubbliche. Peraltro, se in questa città ci fossero stati investimenti in opere pubbliche, in rifacimento edilizio, in miglioramento viabile, in ampliamento della dotazione dei servizi, probabilmente ci sarebbero state difficoltà finanziarie, ma avremmo avuto un miglioramento complessivo anche della città e dei servizi che è in grado di offrire ai cittadini. Resti con noi. Anna Marino ha chiesto poco fa quali sono le proposte dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. È responsabile della finanza locale dell'Associazione dei Sindaci, cioè il sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli. Noi abbiamo all'esame innanzitutto il decreto sui cosiddetti predissesti. Vi è stato un impegno molto importante del governo nazionale a garantire che non vi sia una situazione di default per alcuni comuni che effettivamente si trovavano sull'orlo del precipizio. Più in generale vi è stato un irrobustimento dei controlli e delle verifiche che in qualche modo devono tendere a che certe situazioni non abbiano più a verificarsi. Alcuni comuni che sono stati comunque toccati dal decreto salva comuni, come Palermo e Napoli, hanno dei sindaci che sono scontenti rispetto a questo provvedimento, mentre altri non sono stati toccati, come il comune di Alessandria, che si trova in una situazione davvero disperata. Come fare? Beh, la situazione è che probabilmente ad Alessandria si erano già consumati dei fatti che non consentito di inquadrare la fattispecie come preventivamente migliorabile o comunque finanziabile. È obiettivamente vero che al sud vi sono state delle debolezze e delle difficoltà maggiori. Questo perché, ripeto, hanno inciso di più significativamente delle scelte che nel tempo hanno appesantito quei bilanci, soprattutto sulla spesa del personale. Incapacità di gestire l'azienda comunale, poi danno la colpa a quelli che li hanno preceduti. Manca la trasparenza e una commissione cittadina che vigile, scrive un nostro ascoltatore Lorenzo. Cosa risponde il sindaco di Alessandria? Rispondo che i dati sono in modo trasparenti agli occhi di tutti. Che la Corte dei Conti, dopo oltre un anno di verifiche, di richieste di modifiche al bilancio che appariva ed era falso, ha emesso la sua deliberazione, e che oggi non è che mancano i fondi e le risorse perché c'è il dissesto, c'è il dissesto perché mancano i fondi e le risorse, e quindi, come dire, questa è una conseguenza, perché altrimenti fare bilanci falsi e continuare a replicare una situazione in cui si spendeva molto di più di quello che entrava, insomma, è molto facile, dopodiché la comunità muore. Ma il tema oggi, al di là delle responsabilità su cui sta indagando... Ma le responsabilità, mi scusi, i nostri ascoltatori sono molto interessati in questi... Il problema italiano, dice Leo, è che nessuno paga alla fine, basterebbe chiedere i danni all'amministrazione colpevole, dice Leo. Esattamente, ma c'è già una richiesta di danno erariale per 10 milioni di euro, dopodiché deve essere confermata e dopodiché deve essere anche esigibile, cosa che non è scontata. Nel frattempo io devo erogare dei servizi. Senta, che cosa dovrebbero fare invece i fornitori privati, ci chiede Paolo Udine. I fornitori privati del comune, non delle partecipate del comune devono insinuarsi entro il 3 novembre con procedura che è esplicitata sul sito e presso i commissari straordinari per il dissesto. Quanti soldi dovrebbe dare lei a questi fornitori privati? Ha fatto i calcoli? Dipende, sì, adesso stiamo facendo la ricognizione sulla massa passiva, per esempio ci sono cooperative che aspettano €1 milioni, ci sono fornitori che alcuni per diverse decine di migliaia di euro, altri per poche migliaia di euro, non saprei quantificare in modo preciso, è un processo che sta avvenendo e che si concluderà il 3 di novembre. Grazie al sindaco di Alessandria, Maria Rita Rossa, ringrazio anche Anna Marino, ringrazio tutti i nostri ascoltatori, vi ricordo adesso si è scatenato il tamtam degli sms, decine ne arrivano, su questa vicenda naturalmente torneremo, vi ricordo Facebook, Italia in Controluce, il cameo, l'approfondimento di Radio 24 del giornale delle 13, Facebook, pagina gruppo, Twitter, chiocciola radio24.it. Ci sentiamo domani come sempre alla stessa ora.